Hai fatto tanto male a questo cuore, e me ne hai date tante pene amare. Avevo un nome e tu me l'hai infangato, il nostro amore tu l'hai calpestato. Però non mi lasciare, io t'amo tanto. Per quest'amore innanzi alla Madonna ho pianto. Fior d'ogni fiore, io l'ho baciate tante bocche amare, ma sopra quella tua ci stava le fiele, ma sopra quella tua ci stava il male. Suona già la campana alla chiesetta, entra nel santuario una vecchietta, e la mammina che mi vuol salvare, lei va davanti a Dio per me a pregare. Io t'ho lasciata mamma per la donna, per quest'amore t'ho dimenticata. Madonna, fior d'ogni fiore, io l'ho baciate tante bocche amare, ma sopra quella tua ci stava le fiale, ma sopra quella tua ci stava il male. Or mi sorride mamma e canta il cuore, la Madonnina m'ha fatto guarire. Fior d'ogni fiore.